Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Dall'Università Tsinghua di Pechino arriva un robot chirurgico che stampa cellule vive per riparare le lesioni dello stomaco, o meglio, per la verità questo è l'obiettivo. Il microrobot si affida a una tecnologia che viene chiamata bioprinting in vivo in situ, proprio perché il robot è in grado di entrare nello stomaco del paziente e riparare i tessuti gastrici danneggiati sul posto, un po' diciamo come si fa quando si stucca un buco nel muro. Allora, spero che il nostro ospite di stasera mi perdoni se sono stato un po' troppo prosaico. Buonasera, benvenuta, anzi bentornata, Arianna Menciassi. Buonasera, grazie. Allora, Arianna Menciassi è full professor all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove insegna tante cose, si occupa di tante cose, tra cui proprio la chirurgia robotica, ed è anche prorettore vicario della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Dunque, per prima cosa le chiedo di descriverci questo microrobot e come funziona in linea di massima la procedura di utilizzo. Allora, in realtà non si tratta proprio di un microrobot, si tratta più di un modulo molto interessante che viene posto sulla cima di un endoscopio, più precisamente di un gastroscopio. Quindi il gastroscopio viene inserito dalla bocca del paziente, arriva allo stomaco e a quel punto si apre una capsula, un sistemino terapeutico, chiamiamolo così, sulla cima dell'endoscopio, che va a depositare, sparare delle cellule sul la parete dello stomaco che è stata danneggiata precedentemente da che cosa? Beh, nel lavoro i ricercatori citano una procedura chirurgica che consiste nell'apertura di volontaria di un'incisione all'interno dello stomaco per avere accesso all'addome e da lì fare operazioni di chirurgia addominale. Poi chiaramente questa incisione deve essere richiusa, e come chiuderla? Io stessa in passato mi sono occupata di capsule che sparavano delle clip metalliche che potevano chiudere queste incisioni nello stomaco. Ecco, in questo caso c'è stata un'evoluzione della tecnologia e un blending di tecnologie tradizionali e più moderne, e hanno messo sulla punta di questo endoscopio un sistema che stampa cellule, quindi nella zona dell'incisione vengono stampate delle cellule che vanno a realizzare una specie di cerotto naturale. Ecco, che tipo di cellule sono? Devono essere cellule particolari? Che cellule sono? In questo caso, sebbene i ricercatori non siano ancora andati in vivo, quindi molti dettagli da questo punto di vista non ci sono, ma saranno cellule endoteliali, fibroblasti, non necessariamente presi dal paziente, ma magari anche da linee cellulari disponibili a livello commerciale. Però l'idea questa è una cosa però che già colpisce l'immaginazione dell'ascoltatore, cioè uno si può comprare cellule endoteliali, le vendono? Beh, sì, vengono già utilizzate moltissimo per studi in vitro, e poi sa, il tratto gastrointestinale è una zona piuttosto fortunata. L'idea qui è di fare un cerotto che poi pian piano, un cerotto naturale, che poi pian piano, quando il tessuto vero, naturale, andrà a ricompattarsi, potranno anche essere ricambiate, tutto il tratto gastrointestinale a alto ricambio, tutta la mucosa. Quindi il problema qua tollera bene questo tipo di cose, sì, diciamo. Sì. Sì, premetto, non sono un biologo, non sono un medico, però sì, tollera sicuramente molto meglio rispetto a andare a sparare le stesse delle cellule che so sul cuore. A che punto sono i ricercatori cinesi in questo percorso? Perché appunto non siamo ancora alla sperimentazione sull'uomo, e che cosa resta da fare per poter arrivare in sala operatoria? Beh, il lavoro è molto interessante, come dicevo all'inizio, per questo merging di tecnologie, essere riusciti a pensare l'integrazione di queste tecnologie di bioprinting, che normalmente sono da banco, beh, le mettiamo sulla cima di un endoscopio e proviamo a stampare dove serve con la guida endoscopica. Nello stesso tempo il lavoro è preliminare perché è un lavoro un pochino più, oserei dire, di cinematica, di dimensionamento, fanno dei test su un simulacro trasparente di stomaco e vanno a sparare queste cellule in una parete, quindi non funzionale di questo stomaco. Il passaggio in vivo comporterà molti problemi anche di localizzazione e visualizzazione della zona. Poi il nostro stomaco non è fatto di plexiglass Eh rigido, no. quindi ha delle pieghe, ha delle strutture che in qualche modo devono essere accomodate prima di poter stampare le cellule di interesse. Oggi come oggi, quando si parla di chirurgia robotica, si parla di un robot che fondamentalmente è il Da Vinci, che è un grande robot che interviene, dall'esterno. Nasce tra l'altro proprio per la chirurgia addominale. Qui vediamo invece forse il segno che la chirurgia robotica sta cambiando, sta puntando su altri tipi di robot. Sì, è vero, d'altra parte nel nostro immaginario collettivo c'è anche l'impatto. Io se penso a, e penso molti, se pensiamo a qualcosa che vola, pensiamo al Boeing, non pensiamo al drone. Però è vero, ha ragione. Sa, il robot Da Vinci è un robot teleoperato che fa un po' tutto quello che fa la mano umana. Ma se andiamo verso una specializzazione, come nel caso dell'articolo di cui stiamo parlando, non si chiede di fare tutto, si chiede semplicemente, non è così semplice, di riparare una ferita. Beh, a quel punto si tratta di un task molto specializzato e allora paga molto di più una tecnologia piccola, versatile, anche a più basso costo e dà un impatto anche sul sistema proprio di terapia molto più basso. Grazie, grazie Arianna Menciassi. E Grazie a voi e buona serata. allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.